Allora, benvenuto Luca Miniero, regista del film Sono tornato. Ci sei, Luca? Eccoci. Allora, ti chiedo subito intanto com'è andato il primo fine settimana di programmazione. No, bene, molto bene per un film del genere e devo dire siamo molto contenti anche dalle recensioni, apprezzamenti. Forse all'inizio qualcuno di sinistra ha avuto qualche pregiudizio nei confronti del film, ma più che altro per spettacolarizzazione di questo tema qualcuno ha equivocato. In realtà poi è un ritratto dell'Italia anche abbastanza crudele e quindi devo dire che un film del genere può aver lasciato qualche equivoco all'inizio. Senti Luca, come lo presenteresti? Come lo racconteresti, brevemente a chi ci ascolta? Chiaramente il remake di un film tedesco, però è un remake necessario perché in qualche modo si cambia il personaggio, ovviamente. Secondo me Mussolini diventa il pretesto per una fotografia dell'Italia di oggi, una fotografia che in qualche modo uno deve andare a vedere per poter giudicare, però che ha diverse sfumature, molti contorni, molti filtri. Indubbiamente, questo è molto interessante quando un film ci riesce, magari anche per caso, e riuscire a raccontare la nostra realtà. Senti, prima dicevi del parallelo tedesco, ecco, com'è nato il progetto? Progetto è nato al fatto che c'era piaciuto il film tedesco, pur avendo riscontrato molte lentezze nel film, ma semplicemente da un punto di vista narrativo. E quindi quando con i produttori abbiamo pensato che potesse essere molto interessante, visto che abbiamo vissuto la stessa vicenda politica, farne uno per l'Italia con Mussolini, la stessa vicenda politica per certi aspetti. E ne è venuto un film però anche molto diverso da quello tedesco, perché quello tedesco lì lui è il demonio, e quindi chiaramente anche quando va in giro per la Germania, se c'è qualche apprezzamento è semplicemente scioccante. Invece il nostro rapporto col fascismo è sempre stato un rapporto molto indulgente, purtroppo. Quindi il nostro Mussolini, tra l'altro l'attore bravissimo Massimo Popolizio, quando va in giro per l'Italia, viene anche accolto più che altro da selfie, commenti, e non c'è quell'atteggiamento ostile che magari si può riscontrare nel film tedesco. Senti, ecco, proprio a questo proposito, come mai avete scelto questa forma ibrida? Anche là nel film tedesco, ma è quello che dà poi la cifra artistica del film, perché ovvio, certo c'è un montaggio, però è tutto un po' quello che davvero abbiamo visto per l'Italia. Le reazioni delle persone sono assolutamente vere, poi c'è naturalmente una parte invece più di finzione, ma secondo me questo aspetto del film è proprio quello che da vedere, perché su questo non si può imbrogliare, su questo non si è più nell'ambito del remake. Qua siamo nella presenza di raccontare la nostra realtà, con le persone della nostra realtà. Certo, poi il montaggio si può sempre un po' barare, ma noi non l'abbiamo fatto. Quello che vedrete sarà un'immagine spietata e molto sincera dell'Italia di oggi. Uno degli elementi portanti è quello del mondo dello spettacolo. Non c'è legge etica, ma funziona solo quella degli ascolti. Io penso che questo in effetti sia anche in qualche modo la causa della fine della politica, quantomeno lo pensa il film, perché devo dire che per quanto in effetti la responsabilità sia quella dei politici nel governare male questo paese ormai riconosciuta, bisogna anche dire che le carriere sono stabilite dalla televisione, dai media, per cui i politici durano poco, sono costretti al populismo che hanno per poter ottenere lo share, e quindi in questo modo il paese diventa ingovernabile, con un'analisi in qualche modo che non è scontata, perché normalmente sta tutto addosso ai politici, ma io credo invece che il film dimostri come ci sia proprio una complicità in questa negatività fra un populismo della politica e un populismo anche dei media. Oh, uno degli elementi portanti nelle interviste a varie persone incontrate in giro per il paese è questo modo, di fondo una grande ignoranza e poi un modo comodo e vigliacco di prendersela con chi sta peggio di noi. Parlo nei casi in cui il nemico viene individuato nel migrante. Sì, questo devo dire che è l'aspetto terribile del film, anche perché quello più ricorrente, poi non l'abbiamo messo sempre, ma era ancora più ricorrente di quanto praticamente fosse presente nel film. Il prendersela con i migranti, in qualche modo una guerra fra poveri, chiaramente alzata dalla televisione e dalla politica. Ma questo è soltanto un aspetto, in effetti, di questo razzismo, anche un po' forcaiolo, che si vede nel film. Devo dire che se lo si guarda con una certa attenzione, in alcuni casi è quasi interessante, per esempio nella situazione di Napoli, come praticamente le persone di fronte a Mussolini però abbiano cercato una speranza, cioè una trattativa sul numero di partiti politici, molto divertente da parte di un pasticcere, c'è un fiorentino che giustamente dice sì, però le persone non sono carne da macello. Insomma, un po' perché io sono andato al di là di quello che ho montato, devo dire che un po' per carattere mio voglio vedere un sintomo di ottimismo, malgrado indubbiamente la cronaca di questi giorni sembri dimostrare l'altro. Un altro elemento, secondo me, a livello drammaturgico e anche nella personalizzazione di Popolizio rispetto al personaggio. Nel momento in cui c'è anche un accenno di umanizzazione nella vicenda, per esempio, sentimentale, riuscite sia tu che Popolizio a riequilibrare subito quando viene fuori la follia razzista sia nei confronti dei neri che degli ebrei. Sì, questo però è il tema portante del film, una scelta fatta a tavolino, perché si poteva subito rappresentare Mussolini come il mostro, invece non lo abbiamo voluto fare, perché praticamente ci interessava mostrare il contagio che in qualche modo si è verificato nel paese. Una persona che cerca il consenso e che probabilmente all'inizio ha avuto il consenso, e che in qualche modo è anch'essa dotata, sia pure negativamente, di umanità. Sembra una follia, ma appunto il film racconta il percorso di un dittatore, o quantomeno del nostro dittatore. Se andavamo subito col processo politico a Mussolini, secondo me il film perdeva di forza. Questo però ha portato ad un equivoco, perché qualcuno ci ha detto, e qua sta la follia, chiaramente anche l'offesa, di essere indulgenti col fascismo, ma sono critiche che sinceramente uno rispettisce al mittente, che qua si tratta di aver fatto un film, tra l'altro molto chiaro, però chiaramente si incazza per questo tipo di osservazioni, laddove praticamente non è che stiamo parlando di uno indulgente con i vegetariani, ecco. Bene, Luca, io ti ringrazio. Grazie. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie.